La situazione di Dinamo dello stazione è abbastanza critica a causa di un ritardo ormai accumulatosi negli anni sui lavori di ristrutturazione che erano stati promessi quando noi abbiamo deciso di aprire l'attività. Un parcheggio bici custodito che serve quasi 1 miliardo di utenti regolari, abbonati, e abbiamo raggiunto più di 50.000 parcheggi nei 3 anni di attività, quindi l'attività va molto bene. Purtroppo la mancanza dei lavori che erano stati promessi ci sta mettendo molto in difficoltà. Per questo, visto che non riusciamo ad avere risposte certe da parte del Comune di Bologna, abbiamo deciso di, diciamo, socializzare un po' la nostra crisi, aprire un'assemblea pubblica il tema di quale futuro possibile per il nostro servizio. Quindi mercoledì 27 febbraio alle 20 a Dinamo invitiamo tutti quelli che sono interessati al futuro di questo spazio a partecipare. Dinamo è una bellissima attività in città, un'attività che ha grandi presupposti ecologici, un'attività che apre alle associazioni che confluiscono dentro Dinamo. Dico bene, Simona? Sì, esatto. Infatti non si tratta solo della sopravvivenza della cooperativa che si occupa dei servizi, ma soprattutto anche dell'attività delle associazioni ospitate. A parte l'associazione Salve Ciclisti, che è l'associazione capofila, l'anno scorso abbiamo aperto a una call per realizzare attività gratuite dentro Dinamo a più di 40 associazioni che hanno popolato l'area eventi per tutta l'estate. Abbiamo dovuto interrompere queste attività per l'arrivo del cantiere che poi non c'è mai stato, quindi diciamo un po' inutilmente, mettendo proprio a rischio anche la portata del progetto, visto che già operiamo in un'area molto molto difficile che è quasi abbandonata a se stessa ormai. Ma il comune non si è ancora espresso dopo il fallimento della ditta che doveva fare i lavori di restauro? Non c'è stato nessun appeal da parte del comune? La ditta non è fallita, ma ci sono stati dei problemi dovuti all'assegnazione della gara che sembrano non dipendere direttamente dal comune, però noi non stiamo tutt'oggi ricevendo comunicazioni chiare su che cosa sta succedendo, e questo sicuramente aggiunge ulteriori difficoltà. Ci sembra che non ci sia la volontà di dare l'attenzione giusta né il tentativo di trovare soluzioni alternative insieme, perché poi quello che si chiede al comune è anche questo, l'ipotesi di spazi alternativi. Purtroppo abbiamo già visto in città promettere spazi a realtà come Oz che poi non sono stati dati, quindi non ci fidiamo di quello che sta succedendo. Vediamo che non c'è una politica capace di rispondere all'esigenza di spazi condivisi, di spazi veramente comunitari per la città. Noi cerchiamo di realizzare il fatto che lo spazio di Dinamo comunque è uno spazio pubblico, quindi deve essere uno spazio della città. Cerchiamo di essere aperti a tutti i tipi di proposte che vengono fatti dall'esterno, ma anche di creare noi un laboratorio attivo di sapere anche legato alla mobilità sostenibile. Come ricordavi, ogni anno realizziamo decine di corsi di ciclomeccanica, ospitiamo la partenza di giri in bici che aiutano le persone a conoscere il territorio e ad apprezzarle, e soprattutto siamo anche un presidio di turismo sostenibile. Il turismo a Bologna è in grande aumento, è nell'interesse di tutti fare in modo che i turisti si comportino in maniera responsabile verso la città, per evitare di diventare quei ghetti turistici come abbiamo visto succedere ad altre città d'arte. Ecco, questi sono tutti elementi che garantiscono anche una coesione sociale, una capacità di creazione di lavoro, quindi ci sembra che il nostro operato non si limiti poi al parcheggio della bicicletta, ma vada oltre. Almeno questo è il nostro intento, e su questo punto chiediamo alla città di darci una mano per continuare questo progetto.